Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevo incontrato Steve una sola volta, quando ci è stato presentato il prototipo del Mac, e ci avevo scambiato poche parole. Mi fece una domanda che mi mise in difficoltà. Tu conosci qualcuno che potrebbe fare questo lavoro meglio di te? Mi chiamo Mauro Cuomo, ho 61 anni, vivo in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Sono arrivato a fare il coach e il trainer dopo aver fatto il programmatore, il marchettaro, il direttore vendite, il direttore marketing, partendo dalla Apple e finendo in un'azienda che poi ho venduto 10 anni fa. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. Era orfano, come avete sentito, non aveva i genitori, cioè la mamma lo aveva dato in adozione. Nella sua vita ha fatto un sacco di cose, ha studiato grafia, non ha finito l'università e ha creato un'azienda che si chiamava Apple, e poi è morto poco tempo fa ed è di fatto un'icona dell'inizio di questo secolo e della fine dello scorso. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui e oggi noi raccontiamo delle storie, lo facciamo tutti i giorni. Solo che di solito raccontiamo delle storie molto private, molto personali, che altrimenti probabilmente nessuno di noi conoscerebbe, perché la persona che la racconta non la conosciamo, perché magari non la incontreremo mai e soprattutto non capiterà mai che ci racconti quella storia lì che invece ha deciso di mettere su carta e di inviare a voi siete qui @radio24.it. Oggi invece, raccontando la storia di Mauro, che è sì una storia personale ovviamente, incrociamo questa grande storia, la storia di Steve Jobs, il creatore della Apple, l'uomo che si è attirato tante simpatie e tante antipatie nella sua vita, in particolar modo da quelli che usano il PC, banalmente, da quelli che usano Windows di solito, contro quelli che usano Apple. C'è questa sorta di diatriba abbastanza stupida tra chi usa due computer diversi, e lui è anche il fautore di quella roba lì, ha creato un modo diverso di fare i computer e di utilizzarli, soprattutto di divertirci, sì, più che altro. 349-238-6666, questo è il numero di SMS se avete voglia di sapere, o se sapete qualcosa su Steve Jobs che nessuno sa, o se avete voglia di sapere qualcosa su di lui che invece non sapete, perché Mauro, la persona che ci ha mandato questa storia e che tra poco chiacchiererà con noi, ha fatto diversi lavori sempre nell'ambito dell'informatica ed è stato almeno due volte a San Francisco, in California, in particolar modo nella Silicon Valley e in particolar modo alla Apple, dove ha incontrato Steve Jobs. Ci ha mandato questa mail che diceva: "Egregi signori, e già ci siamo innamorati di lui solo per la partenza. Ho avuto la fortuna di lavorare in Apple a Cupertino nella prima metà degli anni 80 e dopo aver visto il film su Steve Jobs mi è venuta voglia di scrivere di quel periodo, in particolare di un viaggio fatto insieme dopo essere stati licenziati dalla Macintosh Division." La storia che sto per raccontarvi, che ci ha mandato Mauro, è, diciamo, è la parte prima di quel viaggio, è come lui è arrivato in Apple e come ha conosciuto Steve Jobs. La parte del viaggio poi ce la faremo raccontare direttamente da lui. 349-238-6666, soprattutto per le vostre storie, storie di vita, una storia, un racconto che vi appartiene, voi siete qui, @radio24.it. Non serve avere conosciuto Steve Jobs, basta un piccolo pezzo della vostra vita. Cupertino, California, la mitica Silicon Valley. È la seconda volta che mi trasferisco qui. La prima è stata nel 1981 con l'Olivetti, grazie alla mia fortuna e alla mia laurea in informatica. E ne ero rimasto affascinato. Nell'ambito dei computer era lì che stava succedendo tutto. Per la prima volta nel melting pot tecnologico del mondo, e ne facevo parte. Pur avendo vissuto il 68 da studente liceale, con tutti i risvolti che ne conseguono, è stato nella Silicon Valley che mi sono sentito davvero parte di una rivoluzione. Una rivoluzione in fin dei conti pacifica e che, a mio parere, ha cambiato il mondo in meglio. Mi ero subito trasferito come abitazione a San Francisco. Mi sembrava di vivere un sogno. Un appartamento proprio sopra al Vista Point, quello che c'è in alto su Portola Drive, quella che poi, entrando in San Francisco, diventa Market Street. Un piccolo appartamento, ma con una vista strepitosa. Dalla grande vetrata esposta ad est vedevo tutta la baia. Il Bay Bridge è in lontananza a destra Oakland e a sinistra Berkeley. La mattina, anche presto, il sole entrava con una forza tale da svegliarmi, anche se la camera dove dormivo era dall'altra parte dell'appartamento. Unico cruccio, mia moglie era rimasta in Italia, anche se il rovescio della medaglia era piuttosto positivo. Single ed etero a San Francisco nel 1981. San Francisco in quegli anni era esattamente com'è nei raccontini televisivi di The Street of San Francisco. Era proprio così. Erano quegli anni lì, erano gli anni, fine anni 70, anni 80. E la Silicon Valley era il posto dove, il posto dei sogni per un informatico come ero io a quel tempo. Un posto dove sono andato a finire per caso, che potevo solo sognare, invece mi è capitato di andarci, è stato fantastico. Poi ero tornato in Italia per provare a riaggiustare il mio matrimonio, ma senza successo. Avevo lavorato un po' come software engineer, mi ero separato e avevo incontrato Alison, quella che si sarebbe rivelata la mia compagna per la vita. E poi, di nuovo, la fortuna. Sono entrato in Apple in Italia come product manager del Lisa, il primo computer commerciale con interfaccia grafica. E poi, product manager anche del Macintosh, non ancora nato. Un giorno a Parigi, al meeting dei product manager europei, ognuno ha presentato la propria proposta per il posizionamento del Mac in Italia. E la mia è stato un successone. La fortuna continua. Mi viene offerto il ruolo di International Product Manager, proprio a Cupertino. Non ringrazierò mai abbastanza l'amico e collega Umberto che mi diede gli spunti per quella presentazione. Beh, in Apple non bastava però che qualcuno anche in alto ti proponesse per una posizione. Dovevi comunque fare un bel po' di strada, in salita e con le curve, per meritartela. Dopo qualche giorno sono stato invitato alla sede Apple per una serie di colloqui. Mi hanno rivoltato come un calzino. Sono stato intervistato e giudicato da tutte le persone che avrebbero avuto a che fare con me. Il mio capo e sponsor Joanna Hoffman, tutti i miei pari livello nell'area marketing e prodotto, tutti quelli che sarebbero stati i miei collaboratori, la partner delle risorse umane e alla fine Steve Jobs. Avevo incontrato Steve una sola volta quando ci è stato presentato il prototipo del Mac e ci avevo scambiato poche parole. E non mi aspettavo quelle domande, molte veramente personali. Ma ricordo bene quella che mi mise più in difficoltà, che era: tu conosci qualcuno che potrebbe fare questo lavoro meglio di te? Non male come domanda. E dopo qualche secondo risposi: certo, sì, è Bruno, il product manager francese. E lui allora: scusa, e perché dovremmo assumere te invece che lui? E io: perché io voglio farlo e lui no. Steve, dopo avermi guardato dritto negli occhi per qualche secondo, mi disse: ok. Il lavoro è impegnativo ma entusiasmante e io mi sento ancora più rivoluzionario. Perché non solo sono in Silicon Valley, ma addirittura in Apple. Di più, nella divisione Macintosh, dove il futuro lo si immagina, lo si progetta, lo si costruisce e lo si tocca. Ho un team di 8 persone di nazionalità diverse, 6 europei, un giapponese ed una messicana. Siamo responsabili del controllo qualità per il rilascio delle versioni internazionali del sistema operativo. Teniamo aggiornati i vari paesi sugli sviluppi di prodotto e di marketing e forniamo loro raccomandazioni, mentre al contempo cerchiamo di fare implementare le richieste che ne provengono. Il capo della divisione Macintosh è Steve Jobs, che di stipendio prende meno di me. Lo incontro tutti i lunedì allo staff meeting, un'ora in tutto, e ogni tanto ci scambio qualche parola in corridoio. Poi ci sono quei momenti in cui lui ti si avvicina, ti chiede i progressi del tuo lavoro, sa perfettamente quello che stai facendo, ed è così per tutti, dal manager al programmatore. A volte ti elogia pubblicamente, altre ti tratta male o ti sfida. Comunque non succede mai che ti si sieda di fianco e vada via senza averti fatto cambiare la giornata. Spesso in meglio, qualche volta in peggio. Umanamente Steve era, secondo me, una persona fantastica. Fuori dal lavoro era gentilissimo, estremamente mite, molto friendly, quello che lui definiva un happy person, e secondo me là era, ci si stava bene insieme, si passava tempo divertendo, sorridendo. Sul lavoro era un'altra cosa, sul lavoro non accettava la mediocrità, voleva il massimo e voleva che le persone non solo facessero il massimo ma ci credessero fino in fondo, e riusciva a tirarti fuori degli obiettivi che neanche te pensavi di poter raggiungere. Sotto questo punto di vista era veramente una roba irripetibile. Dopo il lancio del Macintosh e il famoso video pubblicitario diretto da Ridley Scott, nella divisione Macintosh siamo intontiti dal successo. We made it. Siamo tutti orgogliosi, orgogliosissimi. Nel settembre del 1984 lanciamo il Mac 512, 512K di memoria. E all'inizio del 1985 la Laser Writer con la rete Apple Talk, che insieme al linguaggio di descrizione della pagina PostScript rivoluziona il mercato dell'editoria. Uno dei tanti mercati che sono cambiati per l'intervento di Apple e di Steve Jobs. Nella divisione Mac siamo dei privilegiati. Viaggiamo in prima classe, abbiamo ottime bibite e spremute fresche gratis. Possiamo avere un massaggio Thai in ufficio tutti i mercoledì. Tutti i venerdì alle 4 di pomeriggio arriva un catering, gratuito, per tutti noi. E porta tartine, patatine, stuzzichini vari, vino e birre. La hall si riempie e inizia l'happy hour. Fondamentale, è fondamentale esserci. Si vengono a sapere un sacco di cose, di lavoro e non, e comunque si fa comunità. Le cose però non stanno andando bene. Le tensioni tra la divisione Mac e il resto di Apple sono palpabili. L'Apple II sta smettendo di tirare e il Mac non vende abbastanza. Non riesce a sfondare oltre la curva degli innovatori. Costa troppo, non c'è abbastanza software, è troppo lento, o TFS, too fucking slow. Il Mac ha un costo di produzione ancora alto per ammortizzare la fabbrica automatica di Fremont e quindi dovremmo vendere ben più del doppio. Siamo sotto, perdiamo soldi. C'è un malessere generalizzato. Fuori dalla nostra divisione l'antipatia per Steve è palpabile. Gira qualche battutina velenosa e poi il fulmine c'è il sereno. Nella seconda metà di maggio, quando arriva la notizia, è comunque improvvisa e scioccante. Non esiste più la divisione Macintosh. Di conseguenza Steve non ha più alcun ruolo manageriale e noi siamo tutti senza lavoro. World out there, look at what has happened in this Steve Jobs world out there. Endless possibilities in this Steve Jobs world out there. Apple seed been growing in this place that we all call our home. C'è una foto sul nostro sito, come tutti i giorni, radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui. Raffigura Mauro durante un discorso, credo, di lavoro, uno speech di lavoro. Alle sue spalle ha un'immagine proiettata, ha una giacca e una camicia e ha l'aria e la faccia rassicurante di un commissario buono, quei commissari dei romanzi gialli che comunque ti danno tranquillità. Pronto Mauro, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Bene. Dove ti trovi in questo momento? Ma in questo momento mi trovo in un hotel a San Felice Circeo, che sto gestendo l'annuale Innovation Lab per una società che si chiama Neo Mobile, che è un mobile commerce company, forse la più importante d'Italia. Ci ho capito niente Mauro, però mi sembra di capire che è una cosa importante quella che stai facendo. Però vivi in Lunigiana, vivi in Toscana, giusto? Nell'alta Toscana. Vivo in Lunigiana, in Toscana, sì. E che dire, Copertino, Lunigiana, one way, come ci sei arrivato da là a qua? Nel senso che adesso poi io voglio chiederti il pezzo mancante della tua storia, che era molto lunga, quindi ho dovuto prenderne un pezzo, no? Però sostanzialmente, dopo tutti questi avvenimenti, dopo che sei arrivato in Silicon Valley due volte, dopo che hai lavorato e dopo che la Macintosh viene smantellata, tu fai un viaggio con Steve Jobs che va a fare delle conferenze più o meno, giusto? Qui in Europa. E passi quanto tempo a strettissimo contatto con lui? Due settimane più o meno? Sì, quasi, tipo, sì, era, mi pare 11-12 giorni, compreso i due voli lunghi che poi portano via un giorno. E cosa succede in quei 10 giorni con lui? Ma succede che intanto ci conosciamo davvero, perché mi trovo vicino a una persona che aveva, insomma, preso una bastonata mica da ridere, una persona che io comunque già stimavo parecchio, perché insomma era uno che aveva fatto tante cose, mm-hmm. aveva fatte piuttosto bene. Smart. Tu quanti anni avevi all'epoca? Cos'era, l'84? 83? No, ero 85. 85. Io avevo 32 anni e Steve ce n'aveva 30. Ah, vabbè, ma eravate due ragazzi in giro per l'Europa proprio? Sì, praticamente eravamo due ragazzi in giro per l'Europa, eravamo solo noi due perché dovevamo essere 12. E poi però... Però si sono tirati tutti indietro. Ah, perché insomma non era proprio in auge la sua immagine in quei giorni, era appena stato cacciato. Ma c'erano due componenti. Uno, voglio dire, a quei tempi lì Steve era parecchio nervoso, anche per come andavano le cose, a parte quello che era successo in quel momento, cioè c'era nervosismo che era salito da un po'. Sì. E dall'altra c'erano persone che ci avevano paura di essere amici di Steve, insomma, quelle cose un po' brutte, no? Perché ormai era chiaro che aveva vinto qualcun altro e quindi si sono un po' allineati alla cordata vincente. Io devo dire che non ho avuto un attimo di... Ma pensa che sono venuti a casa mia, sono venute due persone a casa mia, sì. Una volta una volta l'altra, a dirmi: ma non ci andare, ma sei matto, ti farà diventare matto, cioè, è già arrabbiato nero, è ingestibile. Sembra la descrizione di Beppe Grillo, non so perché mi sembrava, no, non c'è andare con Beppe, è arrabbiato, ha perso la lezione. Senti, invece, scusami, Mauro, quando è finito questo viaggio e tu hai conosciuto Steve, poi tu cosa hai fatto? Hai lasciato la Apple, sei tornato in Italia? Allora, io sono tornato in Italia, devo dire che Steve mi ha ritrovato lavoro in Apple, perché mentre facevamo sto giro qui ha fatto due discorsi con un capo europeo, gli ha detto: guarda che Mauro sta facendo i colloqui con Microsoft, cosa vogliamo farlo andare in Microsoft? Una bestemmia. Mi hanno offerto subito una consulenza di 6 mesi, poi mi hanno riassunto come dirigente in Apple Italia. Ah beh, insomma, quindi ti voleva bene Steve Jobs. Ma ci eravamo simpatici. E poi invece raccontami della tua azienda, tu hai aperto una società tua, giusto, di software? Io sì, quando ho lasciato Apple nel 91 ho raggiunto un piccolo rivenditore di Aulla, questo è il motivo per cui adesso sto a Trevigiano, okay. Ma io sono spezzino, per cui Aulla è anche vicino alla Spezia. Okay. Poi ci siamo concentrati, abbiamo buttato via il negozio, abbiamo fatto solo software, siamo stati anche bravi. In neanche 10 anni siamo diventati il numero 2 in Italia con un prodotto che si chiama ancora adesso ad hoc. È venuto il dottor Zucchetti, ha detto: io vi voglio comprare. Abbiamo detto: parliamone. E abbiamo venduto un'azienda che quando sono entrato io erano 12 persone, l'abbiamo rifondata, ne abbiamo venduto 96 persone. Mauro, insomma, io starei tutto il giorno a parlare con te, ma purtroppo non ho più tempo. Io però ti ringrazio per la tua storia, se ne hai un'altra ovviamente mandacela, che siamo qui ad accogliere. Ma più una storia, non riesco a chiamarlo un racconto, perché ho cercato di ricordare con forza quello che davvero era successo. Anche ti ringrazio. Anche se era stato complicato, lo immagino. Grazie ancora. Ciao Mauro. Ti ringrazio io. Ciao. E alla fine della storia di Mauro, io non so voi, ma ho capito un po' di cose. La prima è che Steve Jobs non era né un santo né un matto. Era come tutti, un po' di qui e un po' di lì. Però era sicuramente molto determinato. La seconda è che Mauro ha vissuto degli anni a San Francisco che probabilmente sono irripetibili. La terza è che quando le cose vanno male, a volte possono andare peggio. La quarta, quando le cose vanno male, a volte possono andare anche meglio. Ma la quinta, soprattutto, è che il merito di questa puntata va tutto a Mauro, non solo per la storia, ma perché alla fine l'ho scritta con un computer che in qualche modo lui ha aiutato a creare. Quindi ringrazio lui, ringrazio Paolino Corleoni, ringrazio Tiziano Bonini, Mauro Pescia dall'altra parte del vetro e Margherita Ina. Ricordo di mandare i vostri racconti a voi siete qui @radio24.it, di scaricare tutti i podcast possibili e immaginabili. E ancora grazie a Mauro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Roberto, vivo a Mondovì, la storia di lunedì è la mia e parla di una notte nella steppa russa con uno sconosciuto. Questa è la mia storia e io sono qui.